Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ultimo argomento di questo mese di novembre insieme all'Adico di Mestre, ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, facciamo i conti in casa, i conti in famiglia. Molti lo sanno, evidentemente la famiglia è diventata di fatto in questi anni di crisi un ammortizzatore sociale e addirittura gli ultimi dati di Coldiretti dicono che un italiano su tre arriva a fine mese appunto solo col sostegno della famiglia, che magari ha messo via un po' di soldi negli anni passati. Situazione davvero che però non può durare a lungo, evidentemente, perché prima o poi le riserve finiranno. Certo amico, prima o poi le riserve finiranno e il mio timore è che questa situazione è destinata solamente a peggiorare, al di là di qualche proclama che ogni tanto viene fuori, in cui qualcuno ci viene a raccontare una barzelletta che siamo fuori dal tunnel e stiamo iniziando la ripresa. Oggi la situazione in Italia è drammatica e questo ormai penso che sia un dato consolidato, ma che addirittura un italiano su tre arriva a fine mese grazie al sostegno della famiglia ci fa capire come questo dato stia assumendo un significato molto importante. Aggiungo all'analisi fatta da Coldiretti un altro dato che mi è capitato pochi giorni fa a soffermarmi, su come molti anziani, e addirittura parlavano quasi 40%, sono arrivati a vendere la nuda proprietà per cercare di terminare gli ultimi anni in maniera dignitosa e pagarsi le cure mediche. Quindi una situazione che nel complesso veramente ci può fare solamente riflettere, ma in senso veramente preoccupante. Appunto, la famiglia fa da ammortizzatore sociale con i soldi messi via, aiutando figli che magari ritornano a casa o tornano a chiedere aiuto. Si parla, credo, in alcuni casi anche di figli ampiamente adulti e quindi di genitori di famiglie ampiamente anziane. Sì, genitori e figli molto anziani e molto grandi che tornano a casa anche perché hanno perso il lavoro, ma situazioni in cui gli anziani sono tornati e si trovano nella condizione con pensioni minime o veramente con pensioni veramente al limite della soglia della povertà, dover pagare anche il mutuo per i figli che a suo tempo avevano fatto da garante e che adesso, avendo perso il lavoro, non sono più in grado di riuscire a sostenere. Ma una situazione in cui vede, come hai detto te, la famiglia fa ancora da ammortizzatore sociale, perché se oggi il nostro sistema ancora riesce a sopravvivere è fondamentalmente perché ci sono gli anziani e le famiglie che sono riuscite ad arrivare alla pensione o a lavorare con una certa continuità che hanno permesso questo sistema a non esplodere. Ma certamente una situazione che sarà avanti così non potrà che peggiorare, perché crediamo che ormai le risorse veramente stanno per ridursi all'osso. Chiaramente l'aiuto alla famiglia si chiede appunto per le cose essenziali, cioè mangiare e dormire, perché poi questi sono i bisogni essenziali. Tutto il resto è diventato superfluo, anche cose che si davano per scontate, vacanze, abbigliamento, per non arrivare poi a cose anche significative come le spese per la salute, ne abbiamo già parlato, o le spese per la manutenzione dell'automobile. Si taglia dappertutto, lì fin dove è possibile tagliare. Sì, si taglia dappertutto e solamente il 14% delle persone si sono rivolto a banche finanziarie, e questo devo dire anche per fortuna, perché oggi non ci sono neanche più le condizioni per accedere al credito o per richiedere un finanziamento. Quindi oggi le famiglie fanno anche veramente da istituti finanziari e diventano anche prestatori di crediti. Però come hai detto te, se guardiamo l'indagine, il 10% delle famiglie non arrivano a fine mese, ma solamente il 45% riesce a permettersi qualsiasi genere di lusso, perché sostanzialmente ormai si rinuncia a tutto e si cerca di concentrare le risorse solamente per sopravvivere. E certamente si è tagliato su tutto, ma si è anche rimandato la possibilità di effettuare altri acquisti, come per esempio ha dichiarato il 68% degli italiani, cioè tutto quello che sta diventando che prima una volta era di prima necessità, come l'abbigliamento per esempio, o le scarpe o altre altre cose, come per esempio può essere anche dei beni di necessità che devono essere legati alla sopravvivenza quotidiana, per chi non ne può proprio fare a meno, queste spese stanno cercando e vengono sempre più rinviate nella speranza di un periodo migliore. Certamente chi rimane veramente sono pochi, quei pochi riesce ancora a permettersi qualche viaggio, qualche lusso, ma veramente ormai fanno parte di una stretta minoranza. Per non parlare poi delle spese molto più impegnative, come ad esempio la casa o l'automobile. Beh, il 42% delle famiglie ha rinunciato alla ristrutturazione della casa, il 40% addirittura a cambiarsi l'auto o la moto e il 37% gli arredamenti. Poi sostanzialmente pesa l'addio anche alla cultura, cosa che nel nostro paese fino a poco tempo fa veramente è una cosa di cui le famiglie e le persone italiane non rinunciavano. Per cui sostanzialmente oggi si rinuncia a tutto, si va via quindi anche con auto più vecchie, si fa meno manutenzione, meno assistenza, ma io aggiungo anche un altro dato che non è apparso su questa indagine, come le famiglie anche rinunciano alle cure mediche, perché oggi sostanzialmente non ci si cura più, oggi sostanzialmente non si fa più prevenzione, si va meno dal dentista, si va meno dall'oculista, per cui ci rendiamo conto che la situazione ha raggiunto una soglia veramente ormai di criticità. Oppure si cercano, penso ai dentisti, si cercano soluzioni oltre frontiera, questa è un'altra questione di cui magari ci occuperemo in un'altra occasione. Ringraziamo l'ADICO, Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ricordiamo il sito associazionedifesaconsumatori.it, la vostra sede a Mestre in via Volturno. Settimana prossima entriamo nel mese di dicembre con altri due argomenti. Grazie Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.